Gianna aveva un coccodrillo ed un dottore. Pappara, pappara, pappà. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Pappara, pappara, pappà. Stai ascoltando Radio Transizione di Fase. E buonasera a tutti, come ogni lunedì ormai dalle 9 alle 11 siamo qui con Pink Moon. Questa sera non sarò da solo, avrò un ospite che mi aiuterà a sbarionare un po' su un compito abbastanza arduo che ora vi andremo a spiegare. Lui è Roberto Molasses. Buonasera, buonasera. È un compito abbastanza arduo, non so chi ce l'ha fatta fare, però ci tenteremo. Andremo a sviscerare un album come l'altra volta, era sempre stato un album seminale, però per la musica popular. La volta scorsa era Sgt. Pepper's and the Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Mentre questa sera vogliamo essere ancora più blasfemi, forse. E cercare di dare un senso, se riusciremo a darlo, a volume si 8 prova, di si Deandre. Prova a dare un senso. Ci proviamo, dai. Intanto il Cannonau ci può aiutare a trovarlo. Del 2007, buon Cannonau. Ah, del 2007 no, non sapevo l'anno. Comunque sì, è un compito arduo, sono stati scritti papelli su quest'album, come ovviamente su De André. Io intanto spengo il cellulare, magari. E in pratica è un compito arduo perché come parlavamo prima con Roberto, De André è un artista alquanto abusato. Sì, sì. Come, vabbè, Rino Gaetano qui a Roma, che ormai ce lo propinano in tutte le salse, dalla piazzetta, dalle matricole che lo suonano, fino allo sfinimento, fino alle cover band che ormai no, di cui ormai non riusciamo più a liberarci. De André è a nostro parere un altro artista abusatissimo e troppo spesso sottovalutatissimo e alquanto svilito. Quindi volume 8 questa sera per voi. Abolendo rigorosamente Marinelle, Bocche di Rosa. Esatto, non sentirete... Pescatore. nessun pescatore, nessuna Via del Campo, Bocca di Rosa del caso. Ah, ovviamente anche se pensiamo che sono dei capolavori, ovviamente. Però... Non ci piace il fatto che vengano abusate e che ogni qualvolta si parli di De André si debba interpretare un suo pezzo, ci si riduca sempre a quelle 4-5 hit che veramente si possono definire hit e delle quali francamente ci siamo rotti i coglioni. Quindi andiamo a sentire un bell'album facilino come volume 8, ovviamente in collaborazione con quel pazzo di De Gregori che io adoro, e anche Roberto. Il principe. Il principe. Può essere Giannini o De Gregori, decidete voi. O tutti e due anche. Vabbè, finiamola con gli svarioni e ci sentiamo subito dopo la sigla. Transizione di fase, una radio rilassante. Vem uma canção, duas notas só, só você e eu, amor. Duas notas só, só você e eu, amor. Duas notas só, só você e eu, amor. E ritorniamo sulle note di Coltrane, un degno sottofondo. E il tema di questa sera, io certe volte mi ripeto perché, come vedo, fino alle 9:30 siete secondo me intenti a mangiare, fate pure bene. Poi dalle 9:30 in poi gli ascolti schizzano, anche se siete un botto già da ora. E pensavamo di fare un piccolo excursus, ossia contestualizzare questo viaggio, si spera non banale, su volume 8, che è un album innanzitutto del 75 e che quindi si colloca subito dopo Storia di un impiegato e Canzoni di De André, ma soprattutto Storia di un impiegato è stata la chiave fondamentale poi di volume 8. Sì, sicuramente è l'album dove De André si espone di più, diciamo così. È quello dove è un po' più esplicito dell'altra sua produzione, un po' più esplicito nel senso che parla ovviamente di una situazione sociale in termini molto crudi a volte, però non lasciando molto spazio all'immaginazione se non per alcune eccezioni della serie La canzone del maggio e altri brani sono molto espliciti. E poi De André, proprio nell'approcciarsi a scrivere volume 8, dirà forse ho detto un po' troppo. De André era allegorico, ha scritto il 68 prima con La buona novella ed era un pugno nello stomaco, diciamo, parlare della storia di Gesù. Di Gesù Cristo per metafore, allegorie. E poi niente, ha voluto dirci tutto. Si è diciamo chiuso degregoriamente parlando e ha dato vita a quest'album assurdo che è stato etichettato in mille modi. Gli sono state affibbiate valenze incredibili e significati straordinari. Poi andremo a capire che c'è molto di molto, molto mistero attorno. È il più poetico, vogliamo dirlo, il più poetico. Sì, più poetico. No. Quindi il meno interpretabile. Esatto. Tra l'altro De André diceva che una canzone che deve essere spiegata è una cattiva canzone, quindi penso che secondo i suoi canoni di giudizio volume 8 sia... Non va interpretata. Ferlinghetti diceva una poesia è come un mazzo di rose, non lo devi spiegare, è un mazzo di rose. Esatto. Devi solo magari leggere tra le righe. Poi vabbè, De Gregori ci giocava un bel po' su questo. Infatti è stato additato di essere una sorta di ermetico per natura e fin troppo. E la gente a un certo punto gli additava il fatto di non dire niente poi alla fine nelle canzoni. Il nonsense. Esatto. E lui ha risposto ovviamente con non c'è niente da capire, che era proprio un pugno allo stomaco di tutti quanti. E quindi dopo un album così esplicito come Storia di un impiegato, volume 8 cadeva a fagiolo. Però noi, siccome siamo in tema di bombe qui e di gas vari... Anche quelli erano tempi di bombe. Esatto. Siamo negli anni 70. Negli anni di piombo. E quindi andiamo a sentirci da Storia di un impiegato, forse la traccia più esplicita. È pericolosa, diciamo. Per chi la scrive la canta. È molto pericolosa. Molto pericolosa. E andiamo a sentirci il bombarolo. Va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro.

una domanda che tutti noi ci siamo potuti fare. Solamente che ebbe la fortuna poi, dopo un po' di tempo, di sapere che De Gregori stava lavorando ad un disco con suo padre. E allora ha detto: no, vabbè, io arrivo in Gallura. Avere De Gregori a casa, diciamo, te lo trovi sdraiato sul divano in pigiama che si fuma 8000 sigarette. E infatti lui ha preso questo traghetto, è arrivato in Gallura, in Sardegna, che ringraziamo per questo splendido cannonau. È arrivato in Gallura e ha incontrato De Gregori appunto in pigiama e gli ha fatto questa domanda imbarazzatissima: perché Alice guarda i gatti? E De Gregori ovviamente non rispose. Gli avrebbe voluto rispondere, non c'è niente da capire, però si è limitato a sorridere. E poi Cristiano De André capì che praticamente che aveva risposto con una canzone, sì, nell'altro album, non diciamo quale, però intanto beccatevi Alice, poi vi continuiamo la storia. Dai, a dopo. Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli: lo sposo è impazzito oppure ha bevuto. Ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa. Non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. E Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì a bagnarsi ancora un po', e il tram di mezzanotte se ne va. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, e i pazzi siete voi. Tutti pensarono dietro ai cappelli: lo sposo è impazzito oppure ha bevuto. Ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa. Non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. Arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna. Non ti chiede mai pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha. Ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli: lo sposo è impazzito oppure ha bevuto. Ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa. Non è così che se ne andrà. Francesco, perché Alice guarda i gatti? La domanda amletica. Non De André, ovviamente. De Gregori si limitò a sorridere a Cristiano De André. E solo dopo quasi un anno, penso, Cristiano De André ebbe la sua risposta. Certo, perché va detto che poi Alice fu un biglietto da visita per De Gregori nei confronti di De André. Si è presentato con questo pezzo. Di fronte al suo mito, davvero, che fu uno dei motivi per cui De Gregori iniziò a scrivere canzoni. Considerava il cantante più underground che avevamo avuto fino a quel momento, sostanzialmente. De André non faceva... Oltre Tenco, che, come mi hai detto prima, usava... Tenco usava le canzoni di André, tipo Marinella, per rimorchiare. Dicendo che erano sue. Grande Tenco, ti amiamo. E ovviamente la risposta a Cristiano De André, a quel bambino che arrivava con le mani in tasca e voleva sapere troppe cose, De Gregori l'ha data scrivendo Oceano insieme a De André. A mio avviso, a mio personalissimo avviso, la canzone più bella di De André e De Gregori insieme. E andiamo ad ascoltarcela. Quanti cavalli hai tu seduto alla porta? Tu che sfiori il cielo col tuo dito più corto. La notte non ha bisogno, la notte fa benissimo a meno del tuo concerto. Ti offenderesti se qualcuno ti chiamasse un tentativo. Ed arrivò un bambino con le mani in tasca ed un oceano verde dietro le spalle. Disse: vorrei sapere quanto è grande il verde, com'è bello il mare, quanto dura una stanza. È troppo tempo che guardo il sole, mi ha fatto male. Prova a lasciare le campane al loro cerchio di rondini e non ficcare il naso negli affari miei e non venirmi a dire preferisco un poeta ad un poeta sconfitto. Ma se ci tieni tanto puoi baciarmi ogni volta che vuoi. E ovviamente questa era la risposta di De Gregori a Cristiano De André sul perché Alice guardasse i gatti. La canzone parla di questo bambino che arriva con le mani in tasca, che chiede un po' troppo forse agli adulti. Sì, forse Gregorio non amava che gli si facesse molto domande sui testi, ma forse anche per questo che De André ha voluto scrivere con De Gregori, cioè non... Ha scelto proprio lui dopo quell'album esplicito di Storia di un impiegato. Questo lo vedremo più avanti, è la svolta un po' per De André, che dall'allegoria passa alla metafora, vedremo. E qui poi non andremo a sviscerare la differenza fra allegoria e metafora, però... Che non ci compete, non assolutamente. Ci compete. Per me sicuramente no. E quindi è proprio la poetica di De Gregori che risponde appunto ad una domanda come quella di un bambino che cerca di relazionarsi con il mondo degli adulti volendo sapere troppe cose, e la risposta è stata proprio questo oceano. Facciamo un salto indietro però di tracklist, abbiamo approfittato di Alice della risposta con Oceano, però andiamo a sentirci la prima traccia di volume 8, La cattiva strada, che è La cattiva strada, sulla quale ci si sono detti, si sono scritti trattati e trattati. Sì, come ti dicevo, a me fa pensare un po', anche perché De Gregori è questa figura dell'antipatico, un po' a Rimbaud, il genio estroverso che viene e poi ti scombussa le carte in gioco. È un po' il protagonista della cattiva strada, è così. E che soprattutto quando c'è il pezzo forte ai concerti, dove tutti vorrebbero cantare insieme, ti cambia le canzoni. Non applaudite quando sentite La donna cannone di Gregori, che si arrabbia, che si incazza. L'applauso del pubblico pagante. Esatto, un applauso del pubblico pagante, lui si taglia le vene. È un po' come Dylan, che con la sua produzione enorme e tutti i live che ha fatto in giro per il mondo, dopo un po' aveva un'esigenza quasi viscerale di stravolgere almeno la proposta, oppure di proporle, come spesso accade per gli artisti, in una luce diversa da come erano state concepite in studio. Vabbè, anche giusto così, cioè se io ho il CD che faccio, pago per sentirmi una canzone come esatto, nel CD, poi a casa. Spesso molti artisti preferiscono poi modificare o riarrangiare e ridare nuova vita a pezzi che magari si sta suonando dopo 6, 7, 10 anni dopo che li si è scritti. Quindi andiamo a sentirci La cattiva strada. Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose: questo è niente, e adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì, sulla sua cattiva strada. Sui viali dietro la stazione rubò l'incasso a una regina, e quando lei gli disse come, lui le rispose: forse meglio è come prima, forse è ora che io vada. E la regina lo seguì, col suo dolore lo seguì, sulla sua cattiva strada. E in una notte senza luna truccò le stelle ad un pilota. Quando l'aeroplano cadde, lui disse: colpa di chi muore, comunque è meglio che io vada. Ed il pilota lo seguì senza le stelle lo seguì. Sulla sua cattiva strada a un diciottenne alcolizzato versò da bere ancora un poco, e mentre quello lo guardava lui disse: amico, ci scommetto, stai per dirmi adesso è ora che io vada. L'alcolizzato lo capì, non disse niente e lo seguì. Sulla sua cattiva strada. Ad un processo per amore baciò le bocche dei giurati, e ai loro sguardi imbarazzati rispose: adesso è più normale, adesso è meglio, adesso è giusto, giusto e giusto che io vada. E i giurati lo seguirono, a bocca aperta lo seguirono. Sulla sua cattiva strada, sulla sua cattiva strada. E quando poi sparì del tutto, a chi diceva è stato un male, a chi diceva è stato un bene, raccomandò: non vi conviene venir con me dovunque vada. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Sulla cattiva strada, sulla cattiva strada. Ed era La cattiva strada, da volume 8. Intanto saluto Cecio da Bologna, che è appena tornato da lavoro, e anche Donato che ci ascolta al confine fra Lussemburgo e Germania, che solitamente sta alla postazione console. Questa sera stiamo facendo da soli. E sì, La cattiva strada ne abbiamo già parlato, la prossima è una canzone che ovviamente è stata tradotta da De André direttamente da un pezzo di un mostro sacro. Un mostro sacro della musica internazionale di sempre. Sì, della storia, è un artista canadese che teniamo nel cuore. Particolarmente il primo d'archettone della storia, va. Ed è Leonard Cohen, e ha tradotto questo pezzo di Cohen, Seems So Long Ago Nancy, che è appunto la storia di un fatto realmente accaduto, di una ragazza suicida, mi sembra in Francia. E ovviamente la presenza di Cohen in De André è palese. Fare un nome che non ti piacerà, mi piacerà. Qua? Marinella. No! Cioè, da Marinella a Nancy. Vabbè. Anche Marinella è, diciamo, il frutto di una storia di cronaca, sostanzialmente. Sì. E quindi questa è la nuova Marinella, diciamo. La nuova hit di De André. La nuova hit di De André. Ripetiamo che siamo contro, contro Marinella, un uso scriteriato di siamo a favore di Nancy, aborriamo Marinella e il suo uso scriteriato che viene fatto un po' dappertutto, e di De André in generale. Quindi Nancy e soprattutto questo pezzo, ma anche Leonard Cohen con la sua poetica da cantore, non saprei nemmeno come definirlo. Sì, soprattutto anche musicalmente un po', non dico lo plagia, lo influenza, certo punto, da Andrea, è sempre De Gregori che ci mette lo zampino, glielo fa conoscere meglio lui. De André cambierà un po' la voce, Cohen è famoso per la sua voce, a Rama di Lasoio, ecco. E De André ci prova un po' a modificare questa sua voce di tradizione francese, molto tonda, molto profonda. Lui malato di Brassens, di Brasson, Brassens. e quindi si rifà molto a queste sonorità. Quindi andiamo a sentirci Nancy. Nancy era senza compagnia all'ultimo spettacolo con la sua bigiotteria. Nel palazzo di giustizia suo padre era innocente. Nel palazzo del mistero non c'era proprio niente, non c'era quasi niente. Un po' di tempo fa eravamo distratti, lei portava calze verdi, dormiva con tutti. Ma cosa fai domani? Non lo chiese mai a nessuno. Si innamorò di tutti noi, non proprio di qualcuno, non solo di qualcuno. E un po' di tempo fa, col telefono rotto, cercò dal terzo piano la sua serenità. Dicevamo che era libera e nessuno era sincero. Non l'avremmo corteggiata mai nel palazzo del mistero, nel palazzo del mistero. E dove mandi i tuoi pensieri adesso? Trovi Nancy a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli. E nel vuoto della notte, quando hai freddo e sei perduto, è ancora Nancy che ti dice: amore, sono contenta che sei venuto. Sono contenta che sei venuto. Ed era Nancy da volume 8, la traduzione di De André. Riprende questo pezzo storico di Leonard Cohen. Il prossimo pezzo si chiama Le storie di ieri ed è interamente del principe del principe De Gregori, che l'aveva proposta a De André da inserire in questo disco. Il produttore inizialmente si era un po' opposto, va detto che questa è la canzone più politica in assoluto dell'album, e forse anche di De André, perché tocca un tema caldo, forse un tema più caldo lo toccherà nell'album successivo De André con Coda di Lupo. Sì. Coda di Lupo parlava della svolta dell'avvicinamento fra la DC e il Partito Comunista di però allora. Lì con metafore anche e lì appunto De André dimostra di aver colto la lezione, del principe, diciamo, degli ascolti anglosassoni. Tradurranno Dylan, tradurranno Cohn, assimilerà tutto. Con le storie di ieri si parla del neofascismo, si parla dell'MSI, Movimento Sociale Italiano, si parla delle dichiarazioni di Almirante, Giorgio Almirante, che fu il reduce di Salò, che iniziò a declamare la svolta democratica del partito nazionalfascista. Questa svolta fu interpretata anche come una forma, diciamo, di ipocrisia, quindi si emerge tutta la comunicazione del politico, perché ricordiamo che De Gregori disse: non mi avrà mai convinto quel suo doppio gioco da manganello e doppio petto. Doppio petto, cioè questa immagine bellissima, la cravatta intonata alla camicia. Solo De Gregori può pensare a qualcosa del genere. È tutta giocata su delle metafore, su delle suggestioni. De Gregori la inciderà anche su Rimmel, questa canzone. Ascoltatela, che come la canta De Gregori è a modo suo. Ovviamente. Personalmente preferisco come la canta De André, più aperta verso il cielo. E parla di questa ipocrisia, perché comunque l'MSI, se da un lato aveva dichiarato la svolta democratica, all'altro lato questo era il periodo del terrorismo sia nero che rosso, e sembrava il terrorismo nero un po' rispondere ai movimenti, diciamo, un po' andare d'accordo con l'MSI. L'MSI mai dichiaratamente si dimostrò sostenitore di queste questi atti di violenza. Gli atti di violenza sono sempre sbagliati, siano di destra, di sinistra, di centro o anche immotivati. La violenza è qualcosa di brutto, prevarica, è il contrario della libertà, sempre e comunque. Come quella citazione di chi era? Di Mannarini. Mannarini, il poeta cieco. No, forse quella di Fellini, no, come di Fini, Massimo Fini, che citava un altro. Ah, sì, quando si dice esistono due tipi di, fascismo, tipi di fascismo o di fascisti. I fascisti e gli antifascisti. Gli antifascisti. Giustamente sembra quasi una lotta tipo fra hooligan. Esatto. Cos'è? Siamo le squadre. Siamo. E giustamente questa canzone va sottolineata che è politica, perché? Perché De André ebbe paura quasi dopo l'uscita di Storia di un integrato. Recentemente noi sappiamo che De André era sotto controllo da parte dello spionaggio italiano. Per essersi spinto un po' troppo esplicitamente su temi politici e quindi c'è una canzone su un bombarolo negli anni 70, è un po' pesante. Lo stesso Mannarini, il poeta anarchico, il poeta cieco, che scrisse Eroina, da cui De André trasse il Cantico dei Drogati, era sempre sotto controllo da parte della Digos. E De André aveva questo timore, sia dal punto di vista politico, diciamo, di essere un po' etichettato, sia dal punto di vista artistico. L'artista non vuole, diciamo, dire troppo, vuole comunicare, non vuole, è contro i manifesti. Esattamente. Non vuole fare questo l'artista. L'arte fa crescere qualcosa, non la mette attaccata a un muro, non ti impone nulla. Suggerisce qualcosa come volume 8. Esatto, volume 8 è proprio l'espressione massima di questo, sia il rifiuto di qualsiasi manifesto, di dichiarazione troppo esplicita che sia, ma l'elevazione artistica che è quello che cerca di fare Pink Moon. Adesso lo dicevi pure tu, volume 8 segue a un album di traduzioni. Sì. Stesso André diceva di aver attraversato una crisi artistica. Quindi che si fa quando sei in crisi? Riproponi determinate canzoni, la ballata dell'amore cieco, ne coverizzi altre, fai cover, vecchi amori, Brassen, nuovi amori, Dylan, che

l'apoteosi della negazione della libertà. Sai, mi viene in mente quella frase che si dice: il più grande inganno che fece il demonio fu quello di convincerci che non esiste. È un po' la politica, l'ipocrisia e la politica è questa: ti dicono no, noi siamo buoni, noi siamo dalla parte giusta. Dalla parte giusta, no, ma in realtà cioè, non sai mai cosa c'è sotto, quindi un pochettino... E quindi benvenga volume 8 che si stacca da tutto. Che bello questo. Il titolo poi. Esatto, il titolo proprio volutamente cioè, generico. Genere, ottavo senza, album. Esatto, l'ottavo album senza appiccicare etichette o cose del genere. Niente, il faccione di De André. Il faccione di De André bello in mostra e nessuna etichetta e nessun manifesto da seguire, ma solamente una proposta che ha di arte e di sublimazione. Ma sì, diciamolo, allora quando si parla di De André, perché è stato essenzialmente tra i nostri autori uno dei primi che ha proposto dei concept album, sì. Cioè ascoltare un suo album è quasi leggersi un romanzo, cioè un inizio e una fine. Abbiamo ascoltato Serge Pepper, proprio la volta scorsa era il primo concept album in volume in 8, ovviamente tutti quanti cercano un collegamento. De Gregori disse: guardate, noi un collegamento non lo pensavamo. Esatto. Noi scrivevamo. Noi ci eravamo rotti le palle come di essere viene. Etichettati. Come viene, scrivevamo. Di essere etichettati come politici, come ermetici. Ermetici, come antagonisti e questi termini per me non obsoleti ma di più. No, ma le etichette, che sono brutte le etichette. Mai metto sì. Un'etichetta a un uomo, lo sminuisci. È una cosa che sì, che restringe e mi angoscia. Marinella è un'etichetta. Tu dici, esatto. Dici Marinella, dici De André, no? Bocca di rosa, via del campo. Un giudice. E infatti Pink Moon andrà sempre più su questa strada, ossia nel non dare alcun riferimento musicale mai troppo rigido. E quindi penso sia questa la chiave di lettura un po' dell'arte in generale. Dell'arte in generale, infatti questo secondo me, non so se sei d'accordo, è il libro per il libro. Pure io, Lapsus, è il disco più artistico di André. Cioè, noi vedremo l'ultima canzone, la figura dell'artista, sì, molto soggettivizzata, esatto. Però qui si riprende una sua fetta importante. Cioè. L'idea è la comunicazione, un po' se vogliamo trovare un filo logico, è l'essere capiti, il comunicare. E quindi abbiamo visto la cattiva strada, comunicazione sovversiva. Nancy è questo amore che non si quasi non viene capito, perché questa Nancy muore. È un album soprattutto dell'amore. Sull'indicibile, sul non riuscire a comunicare bene come si vorrebbe, quindi... E non riuscire a capire bene. Esatto. Chi può dire in piena fede dopo l'ascolto di questo disco che speriamo non sia la prima volta su Pink Moon? Esatto. E se è la prima volta siamo contenti di avervelo fatto ascoltare. Di aver capito pienamente volume 8. E giugno 73 c'è un altro non capirsi. Chi non ha mai... È come quando queste situazioni, esatto. Ecco. È come quando da adolescenti ci presentavamo a casa dei genitori, magari di una ragazza che stavamo frequentando, vestiti in maniera indecente, diciamo. E subito con tutta la buona faccia che potevamo avere, i genitori storcevano il naso e magari diceva: ma uno migliore non potevi trovare. Mamma mia. E tutta questa canzone è bilanciata, è basata sul fatto dell'incomunicabilità prima di tutto fra De André, in questo caso è una sua fiamma, tra virgolette. E poi è una delle prime volte che De André, proprio in questo album, si espone direttamente. Esatto. Autobiografica. Questo. Infatti c'è un bel po' di... ci sono un bel po' di versi espliciti, come ad esempio sono loro stasera i migliori che abbiamo. L'autoironia sul fatto che canta. Esatto. È un cantante comunque. La serie tua madre non ha mai mandato giù il fatto che tu stessi con un cantante, magari, e non con un ragioniere. Non piace alla borghesia l'essere artisti. Diceva Claudio Lolli: la cosa peggiore che può capitarti è avere un figlio artista, ancora peggio comunista. E infatti Infatti Guccini ribaltava un po' la situazione dicendo mia madre non aveva poi sbagliato a dire che un laureato vale più di un cantante, ribaltando un po' la, sì, un po' questa la concezione. Okay, se niente, ce l'ascoltiamo. Andiamo ad ascoltarcela. C'è un appunto da fare, un appunto musicale. Ossia il fatto che questa canzone a me ricordi molto Famous Blue Raincoat di Leonard Cohen. Infatti dopo De André tradurrà proprio a Famous Blue Raincoat e la farà interpretare da Lavanoni. Grandissima artista. Sottovalutatissima. Secondo me sì, cioè molti la amano, però andrebbe valutato ulteriormente. Esatto, magari sì, vedendo le conseguenze dell'amore... Capolavoro. Aiuterebbe magari quella scena con i mafiosi in macchina ad amare un po' di più Ornella Vanoni. Comunque andiamo a sentirci giugno 73. Ce l'ho molto con me, perché sono sposato e in più canto, però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti. E speravo che avrebbe insegnato a tua madre a dirmi ciao, come stai? Insomma, non proprio a cantare, per quello ci sono già io, come sai. Educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano. Li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano. E tu aspetta un amore più fidato, il tuo accendino sai, io l'ho già regalato. E lo stesso quei due peli d'elefante mi fermavano il sangue, io dati a un passante. Viene sempre da sé, i tuoi aiuti saranno ancora salvati. Io mi dico è stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati. Questo era giugno 73. Ora c'è un pezzo che... giugno 73... Cioè, secondo me basterebbe solo fare questo per una puntata. Sì, sì. Ogni pezzo. Che belle, immagini stupefacenti di un De André che parla in prima persona. delle esperienze. Strano per chi ha avuto la fortuna di poterlo seguire di pari passo quando pubblicava i suoi dischi. Un De André che, ricordiamo, in questo disco scriverà le sue ultime canzoni. Ultime canzoni intendiamo scritte da lui e musicate da lui interamente. Solo due canzoni. Questa giugno del 73, un'altra le scopriremo più avanti. Non vogliamo anticipare nulla, che forse è uno dei più bei pezzi della musica italiana. Sì, forse sì, ho capito a cosa ti riferi. Niente, Dolce Luna. Su Dolce Luna ci siamo fatti mille film, mille viaggi. E preferiamo non darvi nessuna chiave di lettura, ma farvela ascoltare semplicemente. E sì, sembrerebbe parlare all'inizio di un barbone, di qualcosa del genere, poi però ovviamente si mescolano le carte in tavola e... Dai, poi ne parleremo dopo, dai. Va bene, dai. Allora, questa è Dolce Luna. Cammina come un vecchio marinaio, non ha più un posto dove andare, la terra sotto i piedi non lo aspetta, strano modo di ballare. Sua moglie ha un altro uomo e un'altra donna, è proprio un uomo da buttare, e nelle tasche gli è rimasta solo un po' di polvere di mare, e non può testimoniare. Si muove sopra i sassi come un leone invernale, ti può parlare ore ed ore della sua quarta guerra mondiale. Conserva la sua cena dentro a un foglio di giornale. La sua ragazza esca dalle lunghe gambe, fa l'amore, niente male, e non può testimoniare. Lui vide il marinaio indiano alzarsi in piedi e barcollare, con un coltello nella schiena, tra la schiuma e la stella polare. E il timoniere di Shanghai tornò tranquillo a pilotare, e lui lo vide con l'anello al dito e un altro anello da rubare. Ma non può testimoniare. Al buio delle tango notti, alla paralisi d'un porto, la luce delle stelle chiare come un rifugio capovolto, la sua balena Dolce Luna che lo aspetta in alto mare, gli ha detto molte volte amore, con chi mi vuoi dimenticare, e non può testimoniare, e non può testimoniare. Mi vieni a dire voglio un figlio su cui potermi regolare, con due occhi qualunque, il terzo occhio inconfondibile e speciale, che non ti importa niente se non riuscirà a nuotare, l'importante è che abbia sulla guancia destra quella mia voglia di mare. E mi dici ancora che il mio nome glielo devo proprio dare, ma non so. Io non so testimoniare. Wat schrecken dunne vlakken toert, wat hurgen dunne vlakkert, en skurgen bunne dunne skra, en dunne vlakken murket. An hargen bucht, an hirgen squa, was klacken dunne flackert, an splacken deer, an splacken kur, net splacken dunnen dachtert. Ed era Dolce Luna, sempre da volume 8, e colgo l'occasione per salutare Francesca da Cittanova e la famiglia Ciardullo. Ciardullo. Andiamo un abbraccio simbolico a tutti voi. E non lo so, se vuoi dire tu qualcosa su Dolce... Anzi, intanto dico a Simone che magari potessimo si potesse fare questa canzone, però accontentati di Diavolo Rosso, che è un altro pezzo che merita, secondo me. Sì, ma il Cannonau è finito. Ah, è finito il Cannonau, qui, vabbè. Vi salutiamo, il Cannonau. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Ciao a tutti, ciao il Cannonau non si va. Non si va. Vabbè, scherzi a parte, Dolce Luna è uno dei testi che sinceramente era quello che ascoltavo meno. È la canzone, sì, che forse si stacca più di tutte. Stacca una... un po' sembra una ballata tipica di André, questo personaggio che non si capisce bene o male. Mi viene un po' per... magari perché lo sto leggendo ora, questo bel libro che vi consiglio, Hanno tutti ragione, di Paolo Sorrentino. Grande questo... Paolo Sorrentino. Questo personaggio che si ripete sempre nel ritornello, non può testimoniare, non può testimoniare. Ora, la testimonianza è un po' dare la prova di ciò che si vede, di ciò che succede. E forse un po', diciamo, anche per deformazione professionale del studio di giurisprudenza, si viene da pensare, si parla di questa moglie che tradisce che è un altro uomo, si parla di un omicidio a un certo punto, sì. Quindi... A un certo punto diventa testimone. Diventa proprio un testimone, palesemente. Quindi, palesemente, situazioni un po' dove il dare prova di qualcosa, quindi ritorna a quel tema del comunicare, di poter dire qualcosa, di poter anche essere creduti. Perché anche il tema, penso, di volume 8 sia anche questo, cioè l'essere un po' genuini e creduti in quello che si dice. Le storie di ieri ci parla di un po' di ipocrisia, dell'ipocrisia della politica in generale. Non vogliamo dare un colore a questa... Io quando penso alle storie di ieri penso al bianco, soprattutto cantata da... Al bianco! Da De André. A pensare al bianco, qualcosa che si eleva verso le nuvole. E infatti poi di nuvole parlerà più avanti De André nel 90. Che vanno e vengono e ogni tanto si fermano. Qua diciamo che a Roma si fermano abbastanza spesso. Molto grigio recentemente, sì, esatto. Ormai è un clima tropicale, siamo ai tropici, il Borneo, arriva il temporale, l'acquazzone alle 5 del pomeriggio. Puntuale, poi... ci prendiamo il nostro tè, abbiamo l'acquazzone. E poi diventa estate, la primavera se l'è fumata qualcheduno, non si sa, comunque speriamo di poterla riavere presto con noi, ospite. Ospite la primavera. La primavera. Picco di ascolti con la primavera. A voglia. Si è vista proprio. Esatto. Era latitante. Esatto. E, la prossima canzone è scritta interamente, per quanto riguarda le musiche, dal principe, dai Gregori. Bellissima questa canzone. Bellissima, canzone per l'estate, che non ha niente a che fare col Festival Bar. Ma forse qualche cosa ce l'ha, perché se c'è un po' il timore dell'imborghesirsi, no? Infatti sì, tutte queste immagini che scorrono dell'uomo, della famiglia, i regali ai figli. E poi si guarda il Festival Bar. E poi un po' penso a quei cantautori che inizialmente esplodono e poi finiscono a fare i dischi solamente prima dell'estate, con le hit dell'estate. Okay. Ogni riferimento a Ligabue è puramente casuale. Io amavo Ligabue dei primi dischi. A voglia. Amavo tanto Ligabue dei primi dischi. E niente, poi un po' ci ha tradito. Ipocrita pure il Ligabue. E come lui, tanti e troppi altri. Ieri parlavamo di un altro gruppo del quale non faremo il nome, però che si sta un po' arrotondando, diciamo. Ah sì, no, ma secondo me... Secondo vabbè, te... Se non si arrotonderà troppo ne parleremo. Esatto. Ah, ne parlerà, anzi, se vorrà mai ospitarmi ancora. No, se parlerò di questo gruppo ti ospiterò volentieri. Canzone per l'estate, sì, una canzone che, interpretata da De André, assume proprio questa cadenza, cioè sembra quasi di essere lì alla finestra, cioè quando dice con i tuoi occhi chiusi, con le tue finestre aperte sulla strada e gli occhi chiusi sulla gente, sembra quasi di essere lì con l'afa di agosto a vedere questo quadretto familiare molto, molto sorrentiniano, se vogliamo. Sì, continuiamo su. Fissatevi con il Sorrentino, con Sorrentino. Noi l'abbiamo tanto. Esatto, non solo con ovviamente quel capolavoro che è il Divo, ovviamente. Le conseguenze dell'amore. Che ha dato un po' di bacchettate a destra e a sinistra. Ma anche Le conseguenze dell'amore, che è stato il film col quale l'ho conosciuto, penso anche tu. Sì. E nel quale appunto c'è quel pezzo della Vanoni che vi invitiamo a... Rossetto e cioccolato. Esatto. E comunque sì, molto sorrentiniana come, come atmosfera, come tematiche. Tu stai leggendo il libro ora di sì, Sorrentino. Parlavamo prima, capolavoro, bello. Lui è sceneggiatore dei suoi film, ma è un grandissimo scrittore. Sa dare il ritmo della... del parlato, rapisce, si osa pure dare suggerimenti sul modo di rimorchiare le donne, soprattutto da parte dei brutti, quindi per tutti i brutti al momento all'ascolto vi consigliamo la lettura di questo libro, che si chiama Hanno tutti ragione. Ah, ok. Copertina bianca con uno scarafaggio, uno scarafaggio nero al centro, perché si dice che a un certo punto questo protagonista si fissi, abbia di punto in bianco la fobia degli scarafaggi. E chissà come magari si fisserà. Sì, se... non ci pagano per fare questo spot. Tra l'altro, ovviamente. Anche se facciamo le dediche. Anche se vorrei fare la comparsa in un film. Quindi se ci ascolta Sorrentino, si sa male. Ovviamente non siamo Radio Kiss Kiss e ce ne vantiamo. Non siamo nemmeno la radio con Amici di Maria De Filippi, come spesso avete ascoltato. Io direi sì, di farvi ascoltare proprio Canzone per l'estate. Con tua moglie che lavava i piatti in cucina e non capiva. Con tua figlia che provava il suo vestito nuovo e sorrideva. Con la radio che ronzava per il mondo cose strane e il respiro del tuo cane che dormiva. Coi tuoi santi sempre pronti a benedire i tuoi sforzi per il pane. Con il tuo bambino biondo a cui hai donato una pistola per Natale, che sembra vera. Con il letto in cui tua moglie non ti ha mai saputo dare, e gli occhiali che tra un po' dovrai cambiare. Com'è che non riesci più volare, com'è che non riesci più a volare, com'è che non riesci più a volare, com'è che non riesci più a volare. Con le tue finestre aperte sulla strada e gli occhi chiusi sulla gente, con la tua tranquillità, lucidità, soddisfazione permanente. La tua coda di ricambio, le tue nuvole in affitto, le tue rondini di guardia sopra il tetto. Con il tuo francescanesimo a puntate e la tua dolce consistenza, col tuo ossigeno purgato e le tue onde regolate in una stanza. Col permesso di trasmettere e il divieto di parlare, e ogni giorno un altro giorno da contare. Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? con i tuoi entusiasmi lenti, precisati da ricordi stagionali. E una bella addormentata che si sveglia a tutto quel che le regali. Con il tuo collezionismo di parole complicate, la tua ultima canzone per l'estate, con le tue mani di carta per avvolgere altre mani normali, con l'idiota in giardino ad isolare le tue rose migliori. Col tuo freddo di montagna e il divieto di sudare, e più niente per poterti vergognare. Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Questa era la canzone per l'estate, sempre da volume 8. E volevo ricordarvi che dopo Pink Moon alle 23 ci sarà come sempre Out of the Shell, che questa sera avrà un ospite in trasmissione, ed è Marco Rovelli, un autore che ha scritto questo libro e lo presenterà in trasmissione. Si chiama Servi, il paese sommerso dei clandestini al lavoro. Quindi restate sintonizzati su Transizione di Fase, perché sarà una puntata molto interessante. Per quanto sì, cioè, la musica di Coltrane è perfetta per andare per dare un sottofondo. Ci diamo un tono. Ci diamo un tono. E salutiamo Franco soprattutto, che ci sa dire, perdona, mi interrompo. Miracolo vivo. È uscito, sì, sì, è stato vittima di un'aggressione. Cerotto bianco che si staglia come una luna. Siamo poetici. Esatto. Siamo molto poetici. E quindi niente, bella per te che sei sopravvissuto. E mi raccomando, di agli ascoltatori che i bicchieri vanno usati semplicemente, esatto, per bere. I bicchieri, invitiamo tutti gli ascoltatori a usare. Non vanno lanciati. Esatto. Questa è pubblicità progresso, i bicchieri non vanno lanciati. Sempre anche non vanno mangiati, a meno che non siano commestibili quelle volte. Esatto, a meno che non siano commestibili, ovviamente. Saluto a tutta la transizione. Un saluto da parte di Franco a tutti i transizionisti, a tutti gli ascoltatori. Canzone per l'estate ha anche una bellissima versione poi cantata da De Gregori in Amore nel pomeriggio. Scusate l'ignoranza, tra i due quello che ne sa di più è Michelangelo. Da De Gregori, che scrisse la musica di Canzone per l'estate e poi stravolge questa musica, ne fa un pezzo bellissimo. È bello pure questo, ma è molto bello, ve lo consiglio di ascoltarlo, anche cantato da De Gregori. Forse l'unica canzone che incide De Gregori di De André, cantata da De André, il testo è di De André. Questo timore di imborghesirsi. Scusa se ti interrompo, stavo cercando di chiamare Donato, forse preoccupato dal nostro annuncio. No, tranquillo, non è successo niente, informissima Franco. Ci vuole ben altro per abbatterlo, quindi sì, ti rassicuriamo. Scusate per questo uso personale del mezzo, la smettiamo qua. E ora succede qualcosa di incredibile. Sì, io lo definisco incredibile. Sì, incredibile perché è la traccia forse di De André più sentita, quella forse che gli è arrivata più dallo stomaco. È De André. Bukowski diceva: non scrivete se non vi viene dalle viscere. Queste sono le viscere di Fabrizio De André. Fabrizio De André, che come sentirete tra un po', scrive questo pezzo dopo essere stato a cena da amici suoi, immagino, perché De André, ricordiamo, nasce da una famiglia di borghesi. Il padre, se non ricordo male, era, non so dirvi precisamente cosa faceva, comunque lavorava in questa industria di zucchero. Adesso al momento non mi ricordo qual era. Comunque erano lì riuniti per fare questa cena. E quello era il periodo in cui il Papa, con le sue dichiarazioni un po' anche pesanti, prima dicevamo, no, il diavolo non esiste, iniziò a dire: il diavolo esiste. De André si ritrova in questa festa, essendo un VIP, questi, diciamo, amici, questi conoscenti, non sappiamo, della borghesia di allora, gli dissero: canta. Lui voleva parlare di questo fatto. È come se fosse un menestrello, si erano fissati sul fatto che dovesse cantare. Un buffone. Esatto. Se era un ballino, doveva ballare. E De André ha detto: no, ma io francamente vorrei parlare con voi questa sera, non vorrei fare il buffone o il menestrello di corte. L'etichetta. Esatto, diciamo. L'etichetta. Lui è il manifesto del saltimbanco. Questo è un pezzo contro tutti i manifesti e tutte le etichette possibili che ci tentano di affibbiare. E quindi qui abbiamo un ritratto di artista, un ritratto di De André, che è un artista che si ubriaca dopo questa cena, questa festa, se ne va ubriaco e si ritrova a scrivere di getto questa canzone che personalmente ritengo meravigliosa. E andiamo ad ascoltarci. Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a raggiungere ognuno dei vostri nascondigli senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso di voi. E poi sorpreso dai vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. E ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscano le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra. E poi seduto in mezzo mezzo ai vostri arrivederci. Mi sentivo meno stanco di voi, ero molto meno stanco di voi. Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a farle spalancare la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedere come si chiama il vostro cane, il mio un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse arrivederci. E mai che mi sia venuto in mente di essere più ubriaco di voi, di essere molto più ubriaco di voi. Questo era Amico Fragile, un ritratto di artista. Tra l'altro c'è questo verso bellissimo: signora sa, io ho perso due figli. Lei è una donna molto distratta che ricorda molto l'importanza di essere onesto, l'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde. Ma del resto tutto questo disco, se si fa attenzione, è pieno di citazioni. Troviamo Pessoa nelle storie di ieri. Qui su Pessoa, parli tu. Quando dice i poeti, che strane creature, o che brutte creature nella versione di Gregori, di Rimmel. Ogni volta che parlano è una truffa. Pessoa diceva il poeta è un fingitore. Questa finzione. Anche qui si parla sempre di comunicazione. Si parla... È il leitmotiv dell'album. Dell'album, sostanzialmente è questo. Cioè, se voi arrivate a farvi la domanda, ma che ha voluto dire, vi siete, avete capito completamente l'album. Cioè, esatto. È quasi un paradosso. E questo. Quindi questa è una sorta... Vabbè, prima abbiamo detto che quest'album è contro ogni manifesto. Però, se vogliamo usare il termine, è una sorta di manifesto, se vogliamo, di questa incomunicabilità a volte. È quasi come si fa un manifesto? Così, volume 8. Esatto. ci si ubriaca, si insulta tutti alla cena. Non c'è modo migliore per dare un messaggio che essere se stessi. Anzi, non anticipiamo poi come l'ha scritta, perché poi andremo a sentirci la versione di... Sì, un po' l'avevo anticipato. Sì, però vabbè, ci siamo fermati a metà. A metà, sì, poi vedremo meglio, detto proprio... Da un artista che... Parole di De André, interpretazione di un altro grande artista, che secondo me pure lui, molto non è stato capito. A voglia. Un po' è scivolato nella canzone per l'estate, secondo me, va detto. Chi? Questo artista di cui stiamo parlando. È scivolato nella canzone, cioè, per l'estate. Anche lui l'ha un interpretata. Po'... No, ha scritto canzoni per l'estate. Ah, ok, sì. Questo ovviamente, cioè vabbè, riempendo gli stadi e tutto quanto, sì. Si è lasciato un po' prendere la mano, ovviamente. Però io, come dico... anche gli occhiali da sole per quella dell'estate. Esatto, in quella sua meravigliosa scenetta con Mike Bongiorno. Mamma che bella quella. Esatto. E ovviamente come... vabbè, stiamo parlando di Vasco Rossi, che io provocatoriamente, ma non troppo, ho sempre paragonato la sua prima produzione ai più grandi cantautori. Sì, sì, tanto a De André, a De Gregori, a qualsiasi anche altro. Ogni tanto qualcosa la tira fuori. Molto Rino Gaetano nei suoi primi album, molto strafottente, ironico. ironico, ironico, sensibile. Gli Angeli è un capolavoro. Anche lui ha avuto collaborazioni, testi scritti da altre persone. Ricordiamo Vivere, che è forse scritta da Massimo Riva. Massimo Riva, Il compianto. Manifesto della lentezza. Parlavamo proprio di ieri dell'elogio della lentezza di un gruppo che non ha molto a che fare, musicalmente parlando, con la lentezza di cui ora stiamo parlando. Vabbè, sono i Codein. E pensavamo proprio quanto fossimo attratti dalla lentezza. Sì, perché anche un po' questo mondo frenetico ci porta a essere superficiali, un po' amico fragile, superficialità di trovarsi al proprio tavolo. Della serie, persona... se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te sì. Mio amico. Cioè, ti trovi al tavolo una persona che scrive canzoni, gli dice giustamente suona la chitarra, che sei un jukebox. Cioè, l'ultima cosa che vorrei questo consumismo chiedere. Cioè, siamo esseri umani a un certo punto. Cioè, se io vi consiglio, se vai incontrate un artista che merita, non Gigi Finizio Gigi Finizio, non chiedetegli di mettersi in mostra, nel senso un po' superficiale come O come magari andare da Guccini, come volevamo fare a suonargli a via Paolo Fabbri 43. Sì, però ci sta una suonata di L'Avvelenata con Guccini. Sì, quello ovviamente, secondo me si sarebbe anche presa bene. Però chissà dov'è sperduto, in quale... Che sicuramente ci ascolterà tra i nostri 20 ascoltatori. Cerchiamo di andare a 25, così. Facciamo come Manzoni. Come Manzoni. I nostri umilissimi 25 ascoltatori. E niente, sì, andiamo ovviamente ora a sentirci la versione di Amico Fragile dal tributo, sì, da Faber, un live a Genova esattamente del 12 marzo 2000, dove si sono avvicendati anche Jovanotti e altri artisti. Adriano Celentano, che fece una figura barbina, cioè? Che fu quasi lapidato davanti a tutti perché non ricordava le parole della guerra di Piero. De André stesso voleva il leggio perché non si ricordava i testi. E Adriano Celentano è caduto in questo errore. Ma giustamente, vabbè, è da Adriano Celentano. A voi glielo possiamo permettere. Lui che ha inventato il rap in Italia, compreso in Coli, Nenzi, Nenciusol, se lo può permettere. E andiamo ad ascoltarci quindi Amico Fragile nella versione di Vasco. La mia prima moglie, e una sera che eravamo a Portobello di Gallura, dove avevamo una casa, fummo invitati in uno di questi ghetti per ricchi della Costa d'Oro. Come al solito mi chiesero di prendere la chitarra e di cantare, ma io risposi: perché invece non parliamo? Era il periodo che Paolo VI aveva tirato fuori la faccenda degli esorcismi. Aveva detto che il diavolo esiste sul serio. Insomma, a me questa cosa era rimasta un po' sul gozzo. Così ho detto: perché non parliamo di quello che sta succedendo in Italia? Ma che? Avevano deciso che dovevo suonare. Allora mi sono rotto le palle, ho preso una sbronza colossale, poi ho salutato tutti e sono tornato a casa. Qui mi sono chiuso nella rimessa e in una notte da ubriaco ho scritto Amico Fragile. Se mi vuoi bene piangere, avresti ancora risposto, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio fino a scoprire ad uno a due i vostri nascondigli senza rimpiangere la mia incredulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso di voi. E poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora, mesi di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora lei è una donna piuttosto distratta. E ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda figlia, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo a te che non finisco le mie dita e poi in qualche modo cominciavo a chitarre. E poi, seduto in mezzo ai vostri arrivederci, sentivo meno stanco di voi, ero molto meno stanco di voi. Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta, fino a vederne spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno per uno dei miei figli di parlare ancora male, ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo evo con una scatola dietro che dicesse te prego. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, io è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farvi insegnare la mia distanza dall'esterno. Potevo attraversare vinti e vinti di corale per raggiungere un posto che si chiamasse Arrivederci. E mai che mi sia venuto in mente di essere più ubriaco di voi, di essere molto più ubriaco. Ed era la versione di Amico Fragile di Vasco Rossi. Qua stavamo pensando come lasciarvi, con quale canzone. Innanzitutto mi ero dimenticato però di dire che potrete trovare ovviamente i podcast di questa trasmissione tramite il sito di www.transizionedifase.org, cliccando proprio sul palinsesto, sul nome di Pink Moon della trasmissione, verrete reindirizzati sulle puntate precedenti. Potrete ascoltarle sia in streaming che scaricarle addirittura. Ah, quindi resta memoria di questa tracce, frammenti. Questa tragica frammenti. E ovviamente sarà pronto il sito definitivo, perché ovviamente questo qui è un sito in allestimento, e penso fra una o due settimane sarà pronto il sito definitivo, dove ci sarà uno spazio apposito per i podcast e potrete ascoltare le trasmissioni, anche le altre trasmissioni. Quindi rimanete sintonizzati sulle frequenze di transizione di fase, che piano piano cresciamo sempre di più. Anche se gli ascoltatori di trasmissione in trasmissione, di giorno in giorno, crescono sempre, stiamo cercando anche di fare delle dirette, degli eventi. Direi di ringraziare anche questi ascoltatori. Che... sì, ovviamente, questo è implicito. Eravamo indecisi su quale pezzo. Io direi di mettere sia un pezzo di Cohen, che poi chiudere con forse il pezzo di De Gregori. Sì, perché sono un po' gli stessi. Hai controllato se dura 3 minuti e 40. 3 minuti e così, quella. Sì, ok. Sennò che metterla se parte quella live è un casino. Diciamo perché mettiamo proprio questo pezzo di Cohen. Perché nel... di Cohen. Di Cohen. Di Cohen perché ricorda molto musicalmente Amico Fragile. Quel modo di arpeggiare. Di arpeggiare. E anche, vabbè... ovviamente come tematiche Cohen era molto, anzi De André era molto affine a Cohen per certi versi. Quindi andiamo ad ascoltarci The Stranger's Song di Leonard Cohen. It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. Now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder. You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you can't close your shelter. You try the handle of the road, it opens. Do not be afraid, it's you, my love, you who are the stranger. It is you, my love, you who are the stranger. Well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another. Please understand, I never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter. Well, he talks like this, you don't know what he's after. When he speaks like this, you don't know what he's after. Let's meet tomorrow if you choose, upon the shore, beneath the bridge that they are building on some endless river. Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm. You realize he's only advertising one more shelter. And it comes to you, he never was a stranger. And you say, okay, the bridge or someplace later. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. Ed era The Strangest Song di Leonard Cohen, ripeto, per Sid su MSN, che non aveva compreso cos'erano i podcast, però l'ho spiegato. I podcast sono dei link a degli indirizzi dove è possibile ripescare le vecchie trasmissioni di Pink Moon per adesso, però so che anche gli altri ragazzi che trasmettono si stanno attrezzando per archiviarle sui loro blog. E comunque nel nuovo sito ci sarà uno spazio apposito. Blog come si chiama? Vabbè, il blog sì, è conandeca.wordpress.com. Questo è il blog di Pink Moon. Sì. Che ovviamente, senza ricordarvi l'indirizzo, potete trovare nel sito di Transizione di Fase, da dove ci state ascoltando, nel palinsesto, cliccando proprio sul nome della trasmissione vi reindirizza direttamente al blog e potrete ascoltare anche le altre deliranti trasmissioni. Questo per il botolo, per Sid, che non aveva compreso. Mentre Bobo diceva di passare qualcosa di Brass, cazzo, è una notizia pesante, mi dice Peppe, è morto il bassista degli Slipknot, e... pesante, sì, vabbè, io sono particolarmente legato, cioè non c'entra un cazzo ovviamente con volume 8 e tutto quanto, però è un gruppo a cui sono legato sin dall'adolescenza. Insomma, ricordiamo, giusto anche, diamo le notizie in diretta per dimostrare che siamo in diretta. Esatto. Insomma, niente, ci siamo un po' seccati di farci capire, no? O avevi qualcos'altro da dire? Poi mi sono su Bobo, il fatto Bobo. Sì, che diceva di passare un pezzo di Brassan. Bobo Passanti, ne abbiamo viste, esatto. Le abbiamo citate spesso. Esatto, infatti quella canzone, Le Passanti, di Brassen, poi ripresa da De André con il testo titolo di Antoine Paul, Le Passanti. Con il titolo Le Passanti, sì, ne l'abbiamo citata spesso, sì. Oggi.